come drenare i fastidi. Sarei sul pezzo fino in fondo, stile rocksteady. Non puoi tenermi giù come Didi. Voi tutti nati pronti, sì, ma quale bon ready? Non c'è terapia, tiro sguardi vuoti. Resto a braccia serrate contro pensieri ignoti. Sciami di vespe corrosive come l'acido che schiuma dalle loro bocche. Un flusso rapido di volti noti. La materia cambia forma quando è esposta alle intemperie di un ambiente soffocato da queste macerie. Belle parole a incorniciare quadri splendidi. Personalità smarrite senza direzioni serie. Quel che reprimo mi divora. Si infiltra come essenza di un veleno che ogni luce decolora. Nessun supporto funziona sotto l'insistenza di una melodia mediocre quando suona. Perché è già limpida, insondabile. Specchio di uno stagno che dimostra quanto il resto è trascurabile e ti attira. Spinge finché spira. Braccia di fango al collo che ti afferrano senza sbagliare mira. Quel che si innalza un fumo porpora. Un velo trasparente resta il fatto che mi incorpora e risorgerà. L'istinto di far finta di essere nudo. Un'esca senza scudo in un ambiente troppo crudo. Quel che affonda nelle carni il minimo. Quel che delimito e il male necessario. Quel che non assimilo. Come drenare i fastidi. Sarei sul pezzo fino in fondo, stile rocksteady. Non puoi tenermi giù come Didi. Voi tutti nati pronti, sì, ma quale bon ready? È una realtà che uccide. Presenta il conto sotto un cumulo di carte false. Ma il suo fragore stride. Compone strofe dentro pagine infinite. Smarrite nel disinteresse. Di più ora passa e ride. L'istinto chiama e non allontanate. La salvezza vive oltre, non disintegratevi. Non c'è un artista che si perde in calcoli. Tu pigia i tasti del dissenso. Ci ostacoli. È così che nasce. Ciò che resta nel tempo mica crolla come casa Asher. Senza tempo come amore psiche. Note sulle false righe delle ardite lì. La pazienza è la cultura che ripaga. Ci vuole il tocco buono degli Utai. Non è l'urgenza di chi passa e sbraga. Ma non incide fuori a calci, chiama gli MC5. Rimango vivo con i nervi accesi. Pago dazio alla paura, soldi ben spesi. Gli ingranaggi sono sempre tesi. Versi piccoli e letali. Manovre acustiche di stampo gresi. Stretti come chiavi inglesi. Raduno gli obiettivi e in qualche modo mi ci attaccherò. Colpi bassi come Borg e McEnroe. Verso cui mi oriento è l'origine di questo flow. La vertigine mi tiene in equilibrio. Sensazioni contrastate in un contesto che non lascerò. Come drenare i fastidi. Sarei sul pezzo fino in fondo, stile rocksteady. Non puoi tenermi giù come Didi. Voi tutti nati pronti, sì, ma quale bon ready? Come drenare i fastidi. Sarei sul pezzo fino in fondo, stile rocksteady. Non puoi tenermi giù come Didi. Voi tutti nati pronti, sì, ma quale bon ready? Come drenare i fastidi. Sarei sul pezzo fino in fondo, stile rocksteady. Non puoi tenermi giù come Didi. Voi tutti nati pronti, sì, ma quale bon ready?